Adolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Nomen imposuit Ioannis Pauli. Thank you. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Questa nomina ma ho fatto dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santi. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Mi corrigerete. E così mi presento a voi tutti per confessare la nostra fede comune, la nostra speranza della Chiesa. E anche a incominciare da nuovo su quella strada, della storia e della Chiesa, e incominciare con aiuto di Dio saludo en perfecto. Estimados hermanos y hermanas, alabad sea Jesucristo. Piazza San Pietro, il mio compito era solamente di riferire su un'udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II. Udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Per la prima volta si parla di terrorismo anche in Vaticano, si parla di terrorismo in una città dove sono sempre partiti messaggi di amore, messaggi di concordia, messaggi di pacificazione. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed è entrata in Vaticano e di panico. Ripetiamo che la gente, le migliaia di persone sono ferme, impietrite al loro posto, non credono forse ancora a quello che hanno visto. Molti barellieri sono andati tra la folla. Non sappiamo ancora la gravità o meno delle ferite subite da Giovanni Paolo II. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui e per la sua salute. Reciteremo insieme il Padre Noster, l'Ave Maria e il Gloria Padre in latino. Evidentemente. Alegría, la paz de Cristo reina en el corazón de todos los hombres. Amén. Africa. Amen. que vaya a ser enterrado sin un sarcófago el Papa. Educación, Una educación, manta, y vari moderni. Lo sconceriamo che i venerabili sarei di Dio per dare Alberto Arveni e Pina Soriano. Dios es más fuerte. Si è sentito una serie di spari in rapida successione e si è visto il Santo Padre vacillare e accasciarsi tra le braccia del segretario particolare Don Stanislao Givis e del signor Angelo Gugel. Il Santo ho visto io stesso uscire a grande velocità dall'ingresso di Porta Sant'Anna un'ambulanza seguita da un'auto nera con alcune personalità della Segreteria di Stato. Mi è stato riferito che l'autoambulanza che portava il Santo Padre si è diretta all'ospedale Gemelli. Per adesso non abbiamo altre notizie, la folla in piazza San Pietro continua a pregare per il Santo Padre. Thank you. sido embalsamado el cuerpo del Papa. Esta vez me siento un poco triste porque tengo que limitar mi viaje. Nada más a Toronto esta visita. Ese comentario se refiere a que solamente visitará la ciudad de Toronto y no otras ciudades de Canadá. Sí. Pero no vayan ustedes a pensar que canceló Guatemala y México. No. Él sigue después de Toronto a Guatemala y México. México, Guatemala, prepárense porque todavía tiene mucha energía para llegar. Vamos al Vaticano. Vaticano. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Domino. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanct, et dimissis peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, facium vere et fructuose penitentie, cor semper penitens, et emendationem vit, privo ad vobis omnipotens et misericorse Domino. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Método de selección del Papa. Se mi sbaglio mi corrigerete.